Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. A volte mi capita di individuare transumanze umane verso una località comune. Viaggiando in treno capire, trovare, non so, i convegnisti, tutti che vanno allo stesso convegno, la cosa lo capisci, hanno tutti la stessa valigetta, con le stesse brochure dentro, con la stessa scritta, e comunque sai che sono, non so, una congrega di commercialisti, di venditori di aspirapolvere, di medici o informatori scientifici, che vanno tutti in un posto a fare la stessa cosa. E li vedi, è bello, sono delle grandi truppe, quasi delle gite scolastiche, parlano tutte le stesse cose, fanno scherzi, fanno facezze, già allucinano quelle che saranno le meraviglie della serata in albergo a piedilista, naturalmente, in cui tutti faranno delle cose folli. Devo dire che questa volta, in questo viaggio del treno, probabilmente sono incappato in una transumanza di scrittori. Probabilmente da qualche parte c'è un premio letterario, c'è una presentazione di libri, non so perché, vedo tutte persone con dei libri in mano. E si capisce benissimo dalla quarta di copertina che sono libri loro. Sono libri che nello stesso tempo fingono di leggere e ostentano perché qualcuno magari li riconosca e dica loro: guarda, sei tu l'autore di questo libro, è cosa fantastica. E non avrei mai immaginato di vedere in mezzo a questo affollatissimo scompartimento una mia collega, Betta Fiorito, che mi guarda da lontano e mi guarda e mi si avvicina e io capisco cosa vuole da me. Mi sta inseguendo da settimane, perché anche lei ha scritto un libro, ha scritto il romanzo della sua vita, Carciofi alla Giudia, che è la storia della sua, non si può dire perché è un romanzo, della sua felicissima storia d'amore, che ha sposato un signore di religione ebraica, e questo ha cambiato completamente la sua vita, anche se io Betta la vedo sempre uguale. Questa volta non ce la farò a sfuggire a Betta, che chiede a me un commento, una recensione, un pensiero sul suo libro. Dai Betta, parlami del tuo libro. Il tuo è stato un matrimonio di interesse, Betta, confessa. Assolutamente sì. Oh, vabbè, finalmente. Ecco. Sei un'altra persona quando sei sposata. Dici. Ma veramente, ti giuro, ti conosco da anni, sono un'altra persona. T'ha fatto bene. Insomma, io ti ho impregnato fortemente, anche soltanto per il fatto che c'è scritto un libro sul tuo matrimonio. E dai, non mi dire che non è un libro sul tuo matrimonio. No, perché i protagonisti non sono sposati. Lo so. Dai, aspetta, io ti conoscevo prima e ti conoscevo dopo. Ti conoscevo prima della cura matrimoniale e dopo la cura matrimoniale. Ma in bene, mica te lo dico in senso negativo. Sei entrata un'altra persona. È come se tu avessi incontrato un mondo che in parte ti ha modificato, dai. Tu ti rivendichi la tua autonomia, in parte ti ha modificato questo mondo, no? Beh, l'ebraismo ti modifica, perché non è o ci stai o non ci stai. Sì, insomma, non è una religione facile, quindi se ti sposi un uomo ebreo, poi la tua casa sarà kasher, dovrai seguire le festività, insomma. Tu ne hai scelto proprio un ortodosso, serio, che segue la religione in tutti i sensi. La segue, non è proprio ortodosso. Cioè, non è come però sposare Adinolfi, che era una finta. Questo è uno vero, nel senso ci crede veramente. Ci crede, sì. E soprattutto crede poi che l'alimentazione deve essere quella. E insomma, prima. Quindi è tutto kasher la tua vita adesso? Eh sì, prima arrivavo con il tacchino comprato al supermercato, adesso arrivo col tacchino comprato al supermercatino kasher. Ma la metamorfosi è stata graduale o subito? L'hai capito subito che era così? O diciamo all'inizio sembrava una cosa più soft? No, perché lo conoscevo quando ero ragazzina. Ah, quindi era un tuo amico vecchio d'infanzia. E quindi poi l'ho rincontrato dopo 30 anni. E beh, una bella storia d'amore. È una bella storia d'amore, però sapevo che a quella cui andavo incontro. Facevi il grande passo. Facevo il grande passo, sì. Ecco, qual è stata la cosa più difficile, il grande passo? L'unione di due famiglie. di due famiglie un po' contrapposte, la mia. Tu hai una famiglia alle spalle ancora, diciamo, che ti sostiene. Sì, insomma. Ti rappresenta, mica sì, detto. Diciamo che una famiglia laica, fondamentalmente, fatta di gente agnostica. Sai, la vecchia famiglia romana antipapalina, no? Sì, tutti cattolici per modo di dire, abbiamo fatto gli scout quando eravamo giovani, a parte forse... Beh, comunque per loro è meglio un ebreo che un figlio di prete, sicuramente, no? Dai, no, pensati, se poi avevi un seminarista, quelli lì tutti i pretini, dai. No, i pretini no, no, meglio no, questo, no. No, no, e poi invece dall'altra parte una famiglia ebraica con i suoi riti, col suo cibo, perché sai, il problema è sempre il cibo per gli ebrei, no? Che ci sono tutti questi... Ossessione, però, dai. Sì, però ci sono tutti questi aspetti proibiti. Ognuno la vita se l'organizza come meglio crede, questo per essere e quindi, allegri. Insomma, l'unione è stata dura. Anche tu hai scritto un libro, Carciofi alla Giudia, dai, stai qui col libro in mano, stai andando in giro a presentarlo. Ma io non tanto, il tuo libro non sarebbe esistito se non ti sposavi tuo marito, dai. No. Tu vuoi dire non è un libro autobiografico, non è un romanzo? Libro autobiografico. Eh sì, dai, in copertina c'è Betta con il marito, ma con, no, con guarda, la chippa in testa che si sposa. No, guarda, lei no. È più alta di lui. Il mio marito è alto 1,87, io sono un tappo alto 1,60. Infatti le mie amiche subito hanno detto: "Ma hanno fatto lei più alta di lui?". Vabbè, tu 10 anni fa che ne sapevi di Carciofi alla Giudia? Hai imparato tutto dopo. No, guarda, 10 anni fa di Carciofi alla Giudia li sapevo, sì, perché vabbè, mia madre tutti. Cucinava molto bene. Sì, ma cosa c'è dietro? Non lo sapevi. Qui hai capito l'essenza. Sì, qui ho capito l'essenza. Ho scritto un libro un po' autobiografico, un po' però. È chiaro che è un romanzo, un libro romanzo. Romanzo le cui però radici filologiche sono strettissime. È un libro informato, non è un libro. Cioè, non è fatto cercando la voce cucina ebraica su Wikipedia. È fatto da una che tutti i giorni deve stare attenta a mangiare kasher. Sì, questo sì, e poi soprattutto c'è stato... Forse è meglio, sei più snella, tu fatto dici, bene. Sì. La dieta kasher? Fa bene, sì. Beh, insomma, ci stanno pure, sai, gli ebrei americani ashkenaziti un po' ciccioni. Sono chiattone, donne chiattonissime. La mia cultura sono i film di Woody Allen, sono le zie di Woody Allen. Sì, non lo so, lì c'è... Le fa sempre brutte chiattone lui. Sì, forse una cultura del burro, delle cose. Invece, essendo sposata con un tripolino, si cucina solo con olio d'oliva, si mangia carne, non si mangiano formaggi. Nemmeno a parte staccati dalla carne, mai? Ma insomma, non ci vanno molto per i formaggi. Un po' di parmigiano kasher sulla pasta rossa. Questo è quanto mangia mio marito. Ecco, spiegami questa parola kasher, che non è detto che tutti la conoscano. La kasherut... la conosciamo tutti come senso astratto, sì, sì. Ma dimmi esattamente che significa quando ce l'hai come un chiodo fisso tutti i giorni. Delle regole alimentari piuttosto precise. Cioè, intanto non si mischia carne e latte, sono ammessi soltanto alcuni animali come per esempio la mucca, ma non è ammesso assolutamente il maiale, e devono essere ruminanti. Per questo non ti danno il cappuccino con il tramezzino col prosciutto cotto dentro. Certo. Se lo chiedi è un'offesa. Sì, due peccati in uno, no? Perché carne e latte, quindi niente maiale, niente animali non consentiti. Il pesce anche ha delle regole, deve essere solo con la pinna e con le squame. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Ma chi te l'ha insegnato queste cose? Via via tuo marito quando eravate fidanzati? Sì, sì, lì però poi all'inizio sono andata su Wikipedia. Cioè devi prendere un manuale e vedere. No, ma anche su Wikipedia si sa. Insomma, molto difficile. Cioè ti invitava a cena, sì. E però dovevi andare in posti dove mangiavi kasher. Sì, oppure puoi anche andare al mare e mangiarti un pesce con le squame. Ma lui diceva, stai attenta a questo, non mangiare le squame. Quali sono i pesci senza squame? L'anguilla? No, l'anguilla, tutti i crostacei, sono tutti quanti impuri. Non si possono mangiare. Tutti impuri. Le mazzancolle non le puoi mangiare? Niente, mazzancolle niente. Manco da sola. Vabbè, adesso dai, ci vai, qualche peccato di gola. Non lo so, guarda, una volta mi ha beccato qui David Parenzo. Che mangiavi? Io avevo comprato un sushi al supermercato, c'erano dei gamberetti, mi ha detto, allora che fai, li mangi? Guarda, è come mangiare maiali, io... Ti denunciava a tuo marito? Capito? Io quindi ho mio come marito avesse visto con un altro uomo. Mi controlla a casa e David Parenzo che mi controlla qui. Sì, ma lo fanno in chiave scherzosa e ironica. Tu mi parli di persone intelligenti, non mi parli di persone dogmatiche. Oppure ci credono talmente tanto che in realtà lo dicono seriamente. Questo ma voglio no, capire. Ci scherzano. No, ci scherzano. Ci scherzano, però la tradizione fa parte della propria entità, essenza. Cioè, ci scherzano, poi ci sono anche diversi, no? Tipologie, perché ci sono quelli laici che magari i gamberetti, un'eccezione la fanno sui crostacei. Sulla figlia di Trump seduta a convertire, mi pare, no? Per sposarsi. Te non ti sei seduta a convertire? No, io non mi sono convertita. Ma non, perché ti cambia? Non tanto abbiamo le cose figli, le fai, non le cose abbiamo lo fai figli, lo stesso. Quindi qual era la differenza se ti convertivi? Ma generalmente poca alla fine è questo. poca no, no, io lo dico invece, c'è cioè una differenza un po', se hai figli è diverso, perché l'ebraismo si trasmette attraverso la linea materna, però l'altra cosa è che per esempio dovremmo essere seppelliti su due cimiteri diversi, lui nella parte ebraica, io lo dico nel libro scherzando, io nella parte cattolica. E già avete pensato, avete comprato i loculi? No, mi dispiace questo. Questo mi dispiace un po'. Beh, parli però, carciofi alla giudia, diciamo, è il cibo simbolo per un romano. Per un romano. Anche, perché la cucina romana è la cucina ebraica al 100%. Sì, diciamo. La cucina. Non lo sappiamo, ma è così. Sì, il carciofo alla giudia, lo diciamo per chi sta nelle altre parti d'Italia, è un carciofo romanesco, si chiama la mammola. È un carciofo violaceo, per questo ha questo nome. E non ha le spine, non è quelli lì che ti rimangono con le spine, sai, è come i pesci, non avere le squame. No, non lo so. No, devono avere le squame e le spine in quel caso. Però si frigge due volte nell'olio bollente. Farlo a casa è difficile. Farlo a casa è molto difficile. Ci vuole l'olio fortino, ma ha detto proprio un ristorante ebraico. Sì, dice, sì. Ci vuole l'olio a una gradazione talmente alta. Sì, infatti si va sempre a mangiare fuori. Si infila nell'olio e esce fuori, sembra un fiore, bellissimo. Sembra un fiore perché deve essere stato già tagliato con uno speciale coltellino e aver fatto già una rosa. E poi viene rimerso di nuovo, poi in modo croccante, tale che appunto le foglie facciano tipo patatine fritte. Sì. Questo è l'effetto. Nessuno li fa mai e tutti quanti mangiano i carciofi alla romana. No, in casa è quasi impossibile. Senti, quanto ci hai messo a essere accettata la famiglia? Sarà una famiglia così ortodossa? Subito. Perché sei brava, te. Ma sei no, stata... ma eravamo vecchi poi, insomma, ci siamo sposati in tarda età. Quindi... Ah, perché se eri giovane era un rischio. No. Tutte le famiglie oramai è diverso, no? Cioè, oramai c'è un'integrazione. Quindi non è più una cosa così arcaica vista come una cosa delle scandalosa. Famiglie miste già è difficile trovare l'uomo della propria vita, figuriamoci se poi e quando lo trovi stai guardando per il sottile la religione, ma figurati. Quindi no, io ho un bellissimo rapporto con mia suocera che cerca di insegnarmi la cucina tripolina, che è molto speziata, molto buona, fanno delle salse col piccante e con le spezie. Cioè state sempre a parlare di roba da mangiare? Sì, sempre, è un'ossessione. No, beh, no. Il fatto che la salvezza passi attraverso il cibo è molto meglio, piuttosto che per noi passa attraverso la mortificazione, il fioretto, la rinuncia, le cose più belle del mondo non bisogna farle, almeno per loro passa attraverso il cibo qualcosa di buono, è meglio, no? Sì, ma poi sai, ci sono vari periodi, no? Per esempio c'è la Pasqua ebraica dove non si mangiano i lieviti perché... Tu ne fai due di Pasqua, quindi, una con i tuoi e una con la famiglia. Sì, così. Oddio, adesso quella lì cattolica è difficile farla perché poi capita sempre insieme, perché la Pasqua cattolica segue la Pasqua ebraica, il calendario lunare. E... Guarda quanto è complicato però. Sì. Cioè passi la vita col calendario in mano e... No, ce l'abbiamo attaccato sul frigorifero. Ah sì? È certo. E in base al calendario tu... No. Ma fai anche quelle cose il sabato, queste il cose? Venerdì sera. Venerdì sera, venerdì sera assolutamente, cioè lo shabbat lo fa mia suocera. Non ti puoi congiungere con tuo marito? Sì. No, che ne so, voglio questo sapere. Non lo so, no, ma no, è proibito. No. Non lo so se sia e non te l'ha chiesto. È anche la cosa fondamentale. Quindi guarda, non lo so, non credo a questo punto. I fondamenti, parlate solo di mangiare. No, lo shabbat si fa perché è la domenica a pranzo e gli ebrei lo fanno il venerdì sera. Ecco, è la festa della famiglia. Cosa che per noi non c'è quasi più ormai. Invece scomparso. Lì c'è ancora. Però è divertente che e si cucina e, insomma, non si possono fare cose che le attività consuete di lavoro, di professione. Se sei Shomer Shabbat, cioè spiegami. Sei una persona che rispetta il sabato, sei una persona molto religiosa, però la maggior parte degli ebrei non lo è, perché noi sappiamo molti sono commercianti, hanno i negozi quindi aperti. Quindi non è per chiudere il negozio il sabato, giusto? Quindi nella maggior parte dei casi a però c'è cioè, io conosco persone che lo osservano. C'avevo un collega giornalista giornalista che ormai non c'è più, lavora con me Rai, e il venerdì sera non andava a lavorare lui e stava fino a domenica, era irreperibile. Non so se era un paraculo o era veramente venerdì, perché inizia il venerdì al tramonto, lui staccava, e finisce il sabato al tramonto, cioè le festività ebraiche iniziano sempre il giorno prima al tramonto. Però la cosa fondamentale, diciamoci la sincerità, il venerdì va bene in una famiglia laica, cioè osservante ma non rigidamente osservante come mio marito. Il giorno peggiore è quello lì del digiuno. E ti tocca anche a te? No, io generalmente scappo, dico che vado. Lui digiuna? Certo. Quanto dura il digiuno? Il digiuno dura dal tramonto al tramonto, sono 25-26 ore a secondo del periodo, e avviene a settembre ed è il giorno dell'espiazione. Allora lì mio marito fa... E lui è digiuno 25 ore? Lui digiuno 25 ma nemmeno ore, bere non acqua. Posso toccare le luci, non posso fare nulla, non posso, io non nemmeno acqua. Ma perché non puoi? Ma tu non puoi toccarlo lui? No, in casa lui digiuna. E cosa sta? Sta fermo in un posto e digiuna? No, lui dorme, poi legge, così. 25 ore, ma può bere acqua? E poi va, no, e poi va fare al tempio. Fare la pipì si può? Sì, vabbè, fare la pipì. Che ne so, non lo so, domando. E io invece me ne vado via, me ne vado in palestra. Se, no, se tu rimanessi lì saresti costretta anche te a fare la stessa cosa. Costretta. Beh, io cerco di non mangiare in casa. Davanti a lui, no? Poi comunque io faccio un mezzo digiuno, perché poi siccome c'è anche lì la cena dello sdigiuno, dopo lo sdigiuno mangerete come appunto, quindi allora mi tengo stretta anche a pranzo, capito? Io magari mangio un cappuccino e poche altre però cose. Sai, uno che si impone una cosa così stretta e rigida c'è un senso profondo. Noi abbiamo perso, no, una volta anche a casa mia non si mangiava il pesce il venerdì, ma figurati, oggi fa ridere, chi è che non mangia, che il venerdì non mangia carne, mangia pesce, tricolo. Sì. Pasqua, ma figurati se toccavamo carne noi per la vigilia di Pasqua, guai, aspettano la toccare, bisogna aspettare, ma oggi che la gente si mangia le salsicce anche la sera prima di Pasqua, che gliene importa? Ante. Senti, invece nel tuo romanzo, dimmi le differenze, i protagonisti del tuo romanzo. Allora, i protagonisti sono Rosa Maria e David, lei ha 42 anni, rimane incinta di una maternità tardiva. Non sei te in questo caso. In questo caso non sono io. David è invece un ebreo tripolino che ha 50 anni, il romanzo ambientato... E lui l'ha ingravidata lui, David? È certo. Beh, chiaro. Gravidata. Beh, così si dice. Il bambino è suo, una cosa eufemistica. No? Il bambino è suo. Vabbè. E allora si prende la responsabilità e la sposa. Si prende la responsabilità, non si sposano, malgrado. Sono. Lo riconosce il sì, bambino. Sì, no, sono una famiglia di fatto. E lei fa la regista teatrale in un momento di tagli del FUS. Lui ha dei negozi di abbigliamento a Roma. C'è la famiglia sua, di lei, che ha invece un'azienda. Un mobilificio che è fallito, e ho voluto fare un romanzo ironico, divertente, però anche drammatico, che descrive quello che è successo in Italia in questi ultimi anni con la crisi delle aziende, la crisi economica. Quindi, lui l'aiuta, diciamo, anche nella parte, diciamo, professionale, in qualche maniera gli dà dei consigli, oppure lei a quel punto fa la moglie e basta? No, lei continua a lavorare anche quando ha delle traversie in teatro, si trova un altro lavoro, cioè lei è una donna che non si scoraggia. E questo secondo me è molto importante, visto quello che abbiamo passato in Italia. Tuo marito l'ha letto dopo, quando è finito? No, mio marito l'ha letto durante. Quindi aveva anche un controllo politico? No, assolutamente no. No, lui mi diceva: guarda, qui ci devi mettere un colpo di scena, qui ci devi mettere un altro colpo di scena, eccetera. Soprattutto, diciamo, sull'elemento culturale. Questo è un libro che è, da un punto di vista filologico, perfetto, sembra scritto da uno studioso, nel senso, lui fa in modo che tu non scrivi cose inesatte, no, tutto quello che riguarda comunque l'aspetto della cultura ebraica. No, poi c'è il suo cugino, che è Roger, che mi ha fatto da Jewish editor. Il problema è che siccome Roger è invece una persona che è Shomer Shabbat, cioè rispettoso del sabato, l'ha letto durante il sabato e non si è appuntato le cose perché non poteva scrivere. È terrificante. Però è l'unico momento che poteva farlo. Certo. Quindi l'ha imparata a memoria, te l'ha detto? No, uno strafalcioncino mi hanno detto che c'è, hai capito? Però ma non poteva nemmeno meno dettare una persona. Non lo rivelerò mai. No, non puoi, capito? Tra nulla che abbia a che fare con no, hai capito? Comunque sono... Però è divertente, sai. Mi diverte tutto questo proprio perché la prendo con filosofia. Loro l'hanno accettato su essere laica, probabilmente, sì. Ma sì, perché metà pure della famiglia sua è laica, quindi noi siamo tutti un po'... Sai come si dice una donna non ebrea in giudaico romanesco? No. Ngarelle. Sei ingarellata? Io sono ngarelle. Ingarellato, cioè il termine ingarellato usa per questo. Sì, capito. Vuol dire appassionato. E quindi io dico sempre, vabbè, se la Madonna, sai la battuta che si dice sulle donne non ebree che si vogliono convertire all'ebraismo, ridendo, dice, vabbè, se la Madonna vorrà, me convertirò. Se la Madonna vorrà. Vabbè, la Madonna, ci abbiamo sempre fiducia. Grazie Betta, buon viaggio. Auguri per il tuo libro. Grazie, ciao, buon ciao, viaggio. Ciao. Il treno va. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Fingendo un'improvvisa crisi di incontinenza, mi allontano dalla mia simpaticissima collega e vado in un altro scompartimento, pensando di essere salvo. Dico, ah, finalmente non avrò più scrittori che vogliono parlarmi dei loro libri. Invece no, invece incontro un'altra che conosco, ma la conosco benissimo, mi ricordo, è Nicoletta Bazzano, che una volta ebbi come ospite in una trasmissione per parlare di un libro secondo me favoloso. Era la storia di Barbie. Questa studiosa, che poi lei è una storica appassionata appunto dell'epoca barocca, però mi parlò di Barbie e mi sembrava impossibile che una studiosa avesse fatto un'analisi così minuziosa di Barbie. Però anche lei ha in mano il suo libro, il suo nuovo libro, che all'apparenza non mi sembra così interessante come un libro su Barbie, Cerimonie cittadine in età spagnola, quindi è su Palermo fastosissima, è la Palermo barocca. Dico, ma no, ti prego, non voglio parlare della Palermo barocca. E invece mi tocca parlare, e poi mi divertirò pure, della Palermo barocca. Ma lo vuoi cancellare Barbie dalla tua vita? No, assolutamente no. Adesso fai un libro interessantissimo sulle tradizioni palermitane passate, sui bassi fondi, le mummie, gli scolatori dei cadaveri, tutte queste cose bellissime, ma sembra quasi un esorcismo alla Barbie di plastica. Beh, ma la Barbie era stata scritta come esorcismo nei confronti di forme della mia infanzia e della mia maturazione, quindi quello era un libro personale, questo nasce un po' anche da come libro di lavoro. Ti racconto un episodio personale dal quale poi tu tirai fuori con scienza e coscienza dei punti in contatto con quella che è la tua opera. Capitai un giorno a Palermo con un mio collega, dovevamo fare un convegno, era una giornata bruttissima, un temporale, una cosa strana così. La persona che ci doveva chiamare per darci la conferma dell'accoglienza, del convegno, tutto, non chiamava mai. Ci mettiamo a girare per Palermo, troviamo un ragazzo strano che ci porta in un posto stranissimo, dice che soltanto poche persone potevano andarci, era un basso fondo, un sotto una chiesa, dove c'erano tutte le nicchie, quelle lì che tu ben conosci. Mi spiegava bene il dotto di sgocciolamento dei cadaveri, mi diceva che lì era un posto dove una confraterna teneva i suoi morti, ci racconto tutto. Uscimmo un po', non dico turbati, ma colpiti da questa cosa qui, leggiamo la notizia che c'era stata una tempesta a Palermo nel frattempo, dei fulmini avevano fatto cadere degli alberi, un albero è caduto su un'automobile e ha ucciso una persona, e ci sembrava una cosa grave, importante, ci dispiacevamo, tornammo in albergo, aspetta, non ci chiamava mai questo signore, alla fine, te la faccio breve, la persona morta dal fulmine che ha fatto cadere l'albero era proprio quello da chiamarci a quel convegno. Ci trovammo una serata a Palermo colpiti da queste circostanze. Ecco, quanto ha a che fare tutta questa sorta di coincidenze casuali, ma a cui si può dare un senso con quello che tu hai scritto e studiato? Ma perché Palermo, sì, ci sono tante coincidenze, ma sono coincidenze appunto che si tengono sul filo della suggestione e del fatto che Palermo è una città barocca, che è rimasta barocca e ha un senso continuo, persistente della morte, come il barocco ha il senso, proprio il presentimento e il segno della morte. A Palermo, nella Palermo di cui mi sono interessata io, la morte era uno dei tanti spettacoli della città, ed era lo spettacolo della morte, lo spettacolo del potere e lo spettacolo del potere della morte, della capacità anche di questo evento di essere salvifico. In una delle pagine racconto come veniva condotto un condannato a morte fino al suo patibolo con i giorni precedenti in espiazione con questa confraternita dei bianchi che appunto si occupava di far confessare, di far purificare l'anima al condannato. e poi lo scortava in una processione che veniva seguita da tutta Palermo fino al luogo dell'esecuzione, e qui tutti si azzittivano di fronte a quest'uomo sul patibolo e pregavano, ma non pregavano per la sua anima, ma pregavano per il suo intervento, perché nella concezione popolare quest'uomo che stava affrontando gli ultimi minuti della sua vita era in grado, si era purificato ed era in grado di essere un intercessore, quasi un santo. Beh, è molto barocca questa visione, sì, molto barocca. Sì, moltissimo, moltissimo. Se pensi quelle che sono le rappresentazioni delle passioni delle chiese barocche, Gesù Cristo insanguinati, sì. Cioè, sembrano camere di tortura, e quindi l'espiazione che passa attraverso la macerazione della carne. Parlami ancora però dei sotterranei, perché è una cosa che mi affascina, cosa c'è sotto, perché sopra, anche se siamo indifferenti, comunque abbiamo un impatto fisico. Sono le memorie del sottosuolo di Palermo che mi intrigano. Beh, ma le memorie, ma è un sottosuolo che emerge, nel senso che c'è un linguaggio nel sovrasuolo che è un linguaggio criptico e che appunto nasconde, come ogni cosa barocca, nasconde al posto di rendere esplicito, è una cosa che c'è, per esempio. Bellissima è questa fontana pretoria, no? È un trionfo di animali, di figure e così via. Leggenda vuole che fra tutti questi animali ci sia anche un orso che è stato lasciato da una viceregina infelice, Felice Orsini, peraltro con questo... Ah, perché è il simbolo della sua casata, per questo. È il simbolo della sua casata e lei vuole lasciare disperatamente una traccia a Palermo, perché in quella Palermo lei è stata una moglie tradita, e quindi ecco perché il marito Marco Antonio Colonna ha un'avventura con una giovane baronessa. Quindi invece di un cervo ci mette un orso. Vabbè. Esatto, ci mette, cioè è il suo segno, è il suo, è la sua maniera di marcare un territorio dove altrimenti lei, come tutte queste altre donne che sono arrivate in Sicilia e che hanno avuto onori effimeri, poi non hanno lasciato traccia. Tutte queste feste barocche che animavano la vita di Palermo, di qualsiasi altra città del passato, erano comunque forme di celebrazione del potere e ricerca di consenso. Tu sei una storica, chiaramente, sì. Non state a fare queste analisi, ma stiamo vivendo una sorta di controriforma anche noi, se ci pensi bene. Sì, quindi ritornerà senz'altro in auge, ad altri livelli sicuramente, con meno afflato poetico, con meno ispirazione profonda e spirituale, ma io registro una profonda controriforma rispetto a un momento di estrema libertà di pensiero, di elasticità che avevamo. Oggi siamo tutti diventati un po' più dogmatici, viviamo tutti nella macerazione e nella paura, capito, dell'imponderabile e dell'indicibile, e stiamo rimettendo tutto in discussione, quindi forse questi morti fastosi ritorneranno a galla e ci ridaranno il loro segno del disprezzo del mondo che dobbiamo avere, perché forse il mondo è da un'altra parte. Guarda, visto da chi studia, non è un caso che si affollino adesso gli studi sull'Inquisizione. Anch'io me ne sono occupata in questo libricino, naturalmente lavorando sulle cerimonie inquisitoriali che ancora una volta riunivano il fasto, la celebrazione del potere, in questo caso dell'Inquisizione, dei domenicani che sfilavano per Palermo con questa croce verde e poi con i condannati dietro che erano offerti al pubblico ludibrio, no? Ecco, ma quanto c'è di storicamente accertato e di leggendario? Io ho assistito a mostre degli strumenti di tortura dell'Inquisizione, fruste, flagelli, chiodi da infilare nella gola, cioè veramente c'era tutto questo apparato, era un grande dungeon di strumenti sadomaso veramente, oppure fa parte della leggenda? No, la tortura era, si praticava nei tribunali dell'Inquisizione come in tutti gli altri tribunali, non era esclusivamente un monopolio inquisitoriale, e si torturava, lo si faceva per il disgraziatamente per il bene dell'anima dell'inquisito. È dico sempre così quando c'è qualcosa. Esatto. È per il tuo bene. Cioè. È per il tuo bene. Nei tribunali inquisitoriali c'era anche un medico, non sempre naturalmente veniva lasciato libero di proteggere il paziente, ma la cosa che a noi lascia sempre più sconcertati è il fatto che la tortura veniva somministrata e poi limitata perché se ne potesse somministrare un'altra poi dopo qualche giorno, e questo che a noi ci quindi il medico serviva solo per tenerlo in vita il più possibile, sì, in modo da confessare, e di fronte una società cattolica opprimente, e a quel punto si confessava perché per quella morale, per quella per le idee vincenti non si era solo colpevoli, si era comunque peccatori, e quindi ecco che la tortura faceva sciorinare le tue parti più intime e segrete di fronte all'inquisitore. Tanto c'era poco da scegliere, secondo me, tanto non è che c'era possibilità di uscirne. No, assolutamente. Quindi. Beh, si poteva essere condannati appunto a queste sfilate atroci, ai quali seguivano poi periodi di vita gramissimi, perché l'aver preso parte a questi auto da fe, no? A questi atti di fede come inquisiti, poi significava l'allontanamento dalla comunità civile, la perdita di ogni credibilità. Beh, la scomunica a questo senso qua, se è scomunicato nessuno può rivolgerti la parola e tu non puoi rivolgere a qualcuno, esattamente. Sono abbastanza amante dell'iconografia barocca spagnola, quindi praticamente è l'origine di quello che tu sta parlando te, a vedere molte volte questi, ho visto dei cristi fatti addirittura con la pelle d'agnello, che sembrino quasi carne umana, che portano in giro per le settimane sante, che è una cosa terribile, col sangue che sgorga fuori, le viscere che escono, c'è una sorta di lussura dell'evisceramento, ecco, una cosa del genere. Il barocco è questo, ha questa, ed è forse quello che a noi affascina, però è anche vero, in queste feste barocche palermitane me ne sono accorta che c'erano anche i momenti di grande leggerezza, le feste a palazzo, le giostre, tutte cose che ecco noi abbiamo perduto. Il treno va. Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori. Una giostra fatta da Ferrante Gonzaga, un altro viceré italiano, siamo ancora nel Rinascimento, ma già si prepara questo gusto barocco, viene fatta una giostra cavalleresca con dei cavalieri che inseguono e vogliono salvare delle ninfe che invece sono anche oggetto di attenzione di alcuni satiri, e tutto questo si svolgeva a Piazza Marina, tutti travestiti, tutti impennacchiati per questo spettacolo diurno, ancora una volta praticamente l'equivalente di YouPorn di quei tempi, considerati tempi. Sostanzialmente il massimo dell'immaginario della trasgressione era il satiro che corre dietro la ninfa. Esatto, questa ninfa che descrivono queste donne vestite di abiti leggerissimi, e quindi figurati per quello che era il satiro, se no che faceva, mi è venuto a perdere tempo. Ma anche la ninfa, no? Questa idea di questa ninfa leggiadra che si cerca di nascondersi fra la boscaglia costruita apposta, perché lo spiazzo di Piazza Marina era il satiro mezzo animale mezzo uomo, che questa cosa più animale che uomo forse, e anche questa è una cosa barocca, no? Perché il barocco è sempre una cosa a metà di una cosa a metà di un'altra, no? C'è il gusto e poi mettere insieme le cose paradossali, è questo che divertiva e dava questi momenti di leggerezza, perché c'era insieme, era una civiltà che riusciva a tenere tutto naturalmente da chi deteneva le del potere. Però te ne sento fortemente impressionata, come fai a vivere una vita serena oggi con questa sorta di strascico nostalgico per un'epoca passata? Non vedi tutto piatto, tutto incolore, tutto privo di spessore, tutto banale, se tu sei così fortemente appassionata di questo periodo, di questo studio che stai facendo? Ma forse è la ragione per cui continuo a studiare, mi pongo sempre cose nuove da studiare, nel senso che non che lo studio sia una cosa per non vedere la piattezza, però è anche vero che la vita intellettuale che tu poi ricavi dallo studio è estremamente. Sai che solo adesso ho capito quanta verità c'è in quello che mi hai detto all'inizio della nostra chiacchierata, che per Barbie è stata l'uscita dalla trasgressione. Barbie è esattamente l'opposto di questo. È la donna piatta, la donna inesistente, la donna plastificata, la donna omologata, la donna che non ha nessuno spessore, nessuna dimensione interiore, nessun fascino, nessun segreto. E tu l'hai fatto, era un po', diciamo, la tua pena inquisitoria perché ti occupi di queste altre cose. Probabilmente sì. Vabbè. Succede così. Sai, ecco, i contrappassi li viviamo vedendo. Vabbè, il tuo contrappasso è anche stare in treno e parlare di queste cose sublimi e sottili con un viaggiatore in treno che probabilmente fra un istante inizierà a chiacchierare con un'altra persona di cose ben più futili e meno profonde. Buon viaggio, ciao. Buon viaggio. Come diceva una volta l'annunciatrice della Rai TV, il programma che segue, per alcune sue sequenze particolarmente drammatiche, è sconsigliabile a un pubblico particolarmente sensibile. L'audiolettera che sto per leggere è sconsigliabile a un pubblico particolarmente sensibile, perché mette le mani, anzi affonda fino ai gomiti, in una materia molto dolorosa, legata a una delusione amorosa che non si sa bene se ci sarà o si sarà già stata. Caro Gianluca, ho 40 anni, sono sposata e faccio una libera professione che ora non mi interessa specificare. Da un paio di anni frequento con mio marito una coppia di amici con cui ci vediamo spesso la sera o anche per fare un weekend fuori. Questa frequentazione è nata dall'amicizia tra i due uomini. Mio marito conosce l'altro per averci lavorato insieme. Io nel tempo mi sono molto legata a sua moglie, che posso dire sia diventata una delle mie poche amiche vere. Si è stabilita una bella confidenza e quando i mariti non ci sono ci raccontiamo un sacco di cose, anche molto personali, ma niente di così particolare in fondo. Ora però sono venuta a sapere di una cosa che mi ha lasciato di stucco e non so cosa fare. Mio marito ha scoperto una cosa che forse era meglio non scoprisse. Quando eravamo ospiti a casa loro in campagna, il suo amico gli ha prestato il portatile per fargli finire un lavoro che si era dimenticato di fare prima di partire. Non si è accorto però che aveva lasciato il programma di posta aperto, o meglio un account di Gmail che era diverso da quello che usa normalmente. Mio marito, quando ha visto questa pagina con le mail, non ha potuto fare a meno di vedere che roba fosse, anche senza aprire le singole mail. In pratica, ha scoperto che il nostro amico frequenta forum di scambisti, mette annunci e risponde a richieste per partecipare a incontri di vario tipo. Quando me l'ha detto, non ci volevo credere, ma le prove sono schiaccianti. È bastato fare una ricerca con il suo nickname sul web ed è uscito fuori di tutto. Vada bene, Gianluca, che ti sto parlando di una persona tutt'altro che stravagante, lavoro impiegatizio e lei pure, stili di vita assolutamente banali, direi. E vabbè, che sarà mai successo? Poteva fare a meno di buttare l'occhio curioso nel laptop del suo collega, che ha scoperto che quello che pensava che fosse un fantoziano impiegatuccio in realtà è un montatore indefesso di coppie in cerca di un terzo elemento, di un bull, come si suol dire nel gergo degli scambisti. Questo signore così si diverte, il suo passatempo, che vuole farci? Ognuno ha i suoi problemi, chi gioca a bocce, chi va a fare lo scopone scientifico e chi va nei clubini di scambisti a fare il torero olè. E allora qual è il problema? Ora, il problema è che la mia amica ignora completamente questa seconda vita di suo marito e di questo ne ho assoluta certezza per tutte le cose che lei mi ha raccontato. Pensa che una volta si è ingelosita per strada perché le è sembrato che suo marito avesse rapidamente guardato un'altra donna. Figurati se lei venisse a sapere di quello che combina lui alle sue spalle. La cosa peggiore è che mio marito ha detto al suo amico quello che aveva scoperto e l'altro lo ha scongiurato di non dire nulla a nessuno. Mio marito lo ha detto solo a me e ora però io Non so proprio cosa fare. Se taccio, mi sembrerà di tradire comunque la mia amica, che sta accanto a un uomo che non solo la tradisce sistematicamente, ma che ha una vita parallela di pura trasgressione, che lei ignora. Se invece decido di raccontarle tutto, l'amico di mio marito se la prenderà con noi e non so davvero che cosa potrebbe succedere. E con la mia amica non posso nemmeno cominciare a parlare male di suo marito genericamente. Innamorata con me, si offenderebbe soltanto. Io so solo che non voglio più frequentare né vedere quest'uomo e non voglio avallare la sua ambiguità. È un bel problema, onestamente un bel problema. Prima bisognerebbe avere la totale certezza che la signora non faccia parte anche lei del trenino settimanale di suo marito. Magari ci vanno assieme, lei che ne sa. Ha visto un attimo un sito in cui questo signore si offriva probabilmente per essere l'elemento di furore in una coppia stanca. Magari la moglie fa lo stesso, saranno fatti loro, perché impicciarsi? Lei vuole aiutare la sua amica a distanziarsi da un uomo che sicuramente le nasconde una parte fosca della sua vita. Io ci penserei due volte prima di farlo. Non so quanto aiuta l'amica. Se loro finora sono riusciti a convivere comunque serenamente nel loro mesto e tiepido quotidiano impiegatizio con lui che la sera si mette la pelle di pantera e l'evidenziatore di pacco, e lei comunque magari sta a casa a guardare tranquilla gli amici di Maria De Filippi, evidentemente il loro matrimonio è basato su questa sorta di compromesso. Oppure lei può fare anche la scelta più drastica, glielo dice: guarda, tuo marito va puntualmente in foschi locali e si presta con il vestito da Tarzan e con la sciabola in mano a rendere felici delle coppie viziose. Cosa fa? Gli fa prendere un colpo, questa muore, cioè non è possibile, mio marito con il quale mi congiungo soltanto in occasione delle feste comandate, quindi due volte all'anno, mio marito che considero un piccolo fantozzi, così tenero, così indifeso, così inoffensivo, fa queste cose. Mi hai dato una visione di mio marito che mai avrei immaginato. Improvvisamente magari scoppia l'amore per il marito, oppure crea una crisi inarrestabile, lascia il marito, lei rimarrà sempre sconsolata con questa angoscia, farà la fortuna di tanti psicanalisti e lui continuerà più tranquillo e più libero a fare quello che è il suo passatempo preferito. Faccia una scelta, non lo so, le consiglierei di stare zitta.